Vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu. Professor Chiesa, lei ha esatto. fatto l'autostop o ha caricato qualche autostoppista? Dica la verità. Mi fa pensare un po' agli anni 70, io non so per quale. Autostop solo quando guidavano delle belle ragazze. Bravo, eccolo là. Tantissima, come al solito sei tu. Buongiorno alle mie conduttrici che mi accompagnano durante le mie lunghe ore in macchina. Torpedo blu. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Dottore, già che c'è, mi misura la pressione? Se non lo fa lui, chiediamoglielo noi, o misuriamola dal farmacista o a casa nostra. Oggi è la giornata mondiale del cuore, la pressione è la cartina tornasole della sua salute. Allora, se avete a cuore il vostro cuore, immagino di sì, non c'è neanche da chiederlo, misuratevi la pressione. Se ancora non l'avete fatto, restate con noi, vi diremo perché è importante tenerla sotto controllo. 800 24 00 24. Ma anche per la pagina di denari parleremo di un argomento che ci sta molto a cuore, perché è uno degli strumenti che utilizziamo per costruirci un futuro un po' più sicuro dal punto di vista economico: il trattamento di fine rapporto. In questi giorni se ne sta parlando tanto, e il trattamento di fine rapporto che i lavoratori dipendenti mettono da parte mese dopo mese e che va a costruire un piccolo gruzzolo che può tornare utile al momento in cui si va in pensione, o purtroppo sappiamo che capita spesso, si resta senza lavoro per altre ragioni. Sta circolando la proposta di trasferirne una parte nella busta paga già nell'immediato per renderla un po' più ricca e rilanciare quindi i consumi. Oggi ne parleremo, capiremo perché molti non sono convinti da questa idea, ma risponderemo anche a tutte le vostre domande sul TFR, per cui potete iniziare a prenotarvi all'800 24 00 24. C'è un principio di magia fra gli ostacoli del cuore. Sera che non muore, è una notte da scartare come un pacco di Natale. Deborah, giornata del cuore, a cuore denari. È anche un po' del raffreddore, direi. Vabbè. Allora, noi oggi festeggiamo la giornata del cuore dando i numeri, diamo i numeri della pressione, sono due, se li conoscete 800 24 00 24, ma provate a sentire la nostra scheda per vedere se vi riconoscete in questi profili. Hai qualche chilo in più che si è affezionato al tuo giro vita? Non hai tempo di dedicarti a un'attività fisica regolare? Fai fatica ad addormentarti e poi dormi poco? Hai una cefalea inspiegabile? Ogni tanto ti prende una strana agitazione? Ti sanguina il naso? Fai fatica a carburare al mattino? Ti senti spossato e privo di forze? Hai ipertesi in famiglia? Allora, se avete risposto sì ad almeno una di queste domande, fermatevi con noi e chiamate il nostro numero verde, pronto a rispondere alle vostre domande, ai vostri dubbi. Abbiamo in linea e tornato a trovarci il professor Claudio Borghi, che è direttore dell'unità operativa di medicina interna al Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a tutti voi e grazie sempre per l'invito. Professore, le domande della nostra scheda, così diverse tra loro, hanno un denominatore comune: i valori della pressione possono essere alti e quindi rappresentare un fattore di rischio importante, ma possono essere anche bassi. In questo caso rischi per la salute non ce ne sono, ma in alcuni momenti della giornata è facile avere la sensazione di procedere come con il freno a mano tirato, insomma si fa fatica. In ogni caso, nel bene o nel male, la pressione ci condiziona, tanto che l'abbiamo definita, professore, la cartina tornasole della salute del nostro cuore, così? Sì, è la realtà, difatti, perché in pratica il nostro cuore svolge molte funzioni, ma quella principale è quella di spingere il suo contenuto, cioè il sangue. Il modo, la modalità attraverso la quale svolge questa funzione fondamentale è naturalmente la pressione arteriosa. Quindi non c'è dubbio che in condizioni normali lo stato di vitalità del nostro cuore può essere in gran parte spiegato attraverso i valori di pressione arteriosa. Avete detto la verità. La luce mi nuoce, c'ho male alle ossa. Tra l'altro ho la pressione bassa. Professore, in ogni caso meglio bassa che alta, no? Su questo siete tutti d'accordo. Ma vogliamo dare qualche numero, professore? Beh, per la verità certamente meglio bassa che alta, in quanto il rischio legato alla pressione bassa è praticamente inesistente, se non quei malesseri ai quali lei faceva riferimento in precedenza, quello legato alla pressione alta invece è noto, è legato alle malattie cardiovascolari. Diciamo, fondamentalmente bassa si intendono valori di pressione che si collocano al di sopra del valore di 105-110 di sistolica, che sono diciamo il minimo valore che è necessario per ottenere una perfusione ottimale dei vari organi. Ci sono persone che naturalmente stanno bene anche per valori molto più bassi, ma nella grande maggioranza dei casi, quando si scende al di sotto di questo valore di pressione, qualche problema dal punto di vista soggettivo lo si può avere. Professor Borghi, quando misuriamo la pressione a casa, dal medico, dal farmacista, ci vengono generalmente comunicati due valori, no? Uno per la minima e uno per la massima. Ma che cosa significano questi due numeri? Sono ambedue importanti nella stessa misura, oppure insomma uno conta un po' più dell'altro? È la massima un po' che dice la sua, che guida il gioco. Direi di sì, comunque sono entrambi importanti, cioè se lei li prende separatamente entrambi, i valori di massima e di minima hanno un rapporto diretto con il rischio cardiovascolare, quindi non c'è dubbio che sono entrambi importanti, e anche se la mia è una sovrasemplificazione, quello che esprimono è fondamentalmente la pressione massima, la capacità del cuore di pompare, la pressione minima, la capacità dei vasi di lasciarsi distendere e permettere la progressione dell'onda di pressione fino alla periferia, perché altrimenti, in caso contrario, ovviamente noi concentreremo tutto il sangue nella parte centrale del nostro corpo, quindi il torace o l'addome, le braccia e le gambe poverette resterebbero completamente prive di una quantità adeguata di sangue. Entrambi hanno un loro valore, ma quando noi cerchiamo di metterli in competizione l'uno con l'altro, come in un ideale ring, e si scontrano, la pressione massima ha nettamente il sopravvento. E questo è un aspetto importante, perché per molti anni la pressione massima non è stata presa in considerazione come fattore di rischio. Quando io ero già adulto e mi interessavo di ipertensione, negli anni 90, il valore di pressione massima non era nemmeno riportato nelle linee guida come uno dei potenziali pericoli, ma si parlava solo di pressione minima. Oggi siamo esattamente sul versante opposto. Più attenzione alla pressione massima, perché le modificazioni adeguate della pressione massima nella grande maggioranza dei casi ci regalano in maniera additiva anche un buon controllo della pressione minima, e viceversa non è vero. Allora proviamo ad esaminare alcuni casi, professore, perché questi due numeri, quello della minima e quello della massima, ci fanno nascere poi tutta una serie di dubbi, si prestano anche ad una serie di interpretazioni, di sentite dire, di luoghi comuni. Allora, ci sono persone che hanno la minima perfetta e la massima alta. Questa va considerata come ipertensione, quindi? Certamente, è un'entità nosografica precisa, come noi la chiamiamo, che si chiama ipertensione sistolica isolata, ed è una forma molto comune, in grande crescita, che in generale aumenta con l'età della popolazione per un aumento progressivo della rigidità delle grosse arterie, per cui il cuore, per poter pompare il sangue lontano come una sorta di fionda ideale, ha necessità di spingere più forte, perché si trova davanti a tubi più rigidi, e quindi fatalmente fa aumentare di molto i valori della pressione massima, mentre ovviamente la pressione minima, che come ho detto prima è legata all'elasticità delle arterie, non è così efficiente, per cui la pressione sale a valori molto elevati ma scende altrettanto rapidamente verso i suoi valori più bassi, e in questa differenza, in cui c'è una prevalenza della pressione massima rispetto alla pressione minima, è descritto un quadro specifico che necessita un trattamento. Quindi sicuramente alla sua domanda la mia risposta è sì. Professor Borghi, quando siamo un po' stressati, preoccupati, agitati, quale sale per prima? La minima o la massima? La massima di solito, perché la massima è condizionata dalla frequenza cardiaca. Quando siamo stressati in generale abbiamo un'accelerazione del battito cardiaco, è la prima, diciamo, riflesso, è il primo riflesso dal punto di vista emotivo, sia per le cose positive che per le cose negative. Non c'è bisogno che lo dica io, chiunque di noi ha provato un momento in cui il cuore ha incominciato a battere più veloce, e la frequenza cardiaca entra più direttamente nella genesi della pressione massima, per cui in generale nella risposta acuta tende ad aumentare prima la pressione massima e solo successivamente la pressione minima. Quindi, professor Borghi, si parla spesso di ipertensione da camice bianco e quindi si fa per giustificare quei valori pressori che aumentano nell'ambulatorio del medico e quando noi torniamo a casa o andiamo dal farmacista, magari con cui abbiamo più confidenza perché vediamo magari con più frequenza, i valori tornano nella norma. Allora, questa pressione che fa dei picchi in concomitanza magari del camice bianco, ma anche magari in altre occasioni, è da considerarsi ipertensione? Esiste? Oppure deve essere un campanello d'allarme che ci dice che se la nostra pressione riesce ad andare a fare dei salti così in alto, vuol dire che qualche cosa non va e andrebbe controllato? Sì, è vero un pochino tutto quello che ha detto. Sostanzialmente per anni questo aspetto non è stato preso in considerazione perché lo si considerava solo ed esclusivamente l'espressione della reattività psichica. In pratica poi, acquisendo dati epidemiologici, ci si è resi conto che chi ha questo comportamento, per cui la pressione sale in queste situazioni, ha in generale un piccolo aumento significativo del rischio cardiovascolare, perché si ipotizza che, è vero che il fenomeno si vede soprattutto quando uno sta in ambulatorio, da cui il nome da ipertensione da camice bianco, ma noi nella nostra vita affrontiamo molto spesso situazioni che sono emotivamente del tutto sovrapponibili a quelle della visita in ambulatorio, per cui per ciascuna di queste occasioni in generale la pressione tende a salire al di sopra dei valori ottimali e questo può generare una serie di problemi. L'ipertensione da camice bianca è stata certamente una delle grandi spinte, uno dei grandi promotori all'impiego di monitoraggi della pressione nei pazienti, monitoraggi attivi, questi strumenti che vengono erroneamente definiti Holter, mentre si chiama monitoraggio ambulatorio della pressione, che si applicano, permettono di vedere come si modifica la nostra pressione durante il giorno e di comprendere se quell'aumento della pressione è un qualcosa di isolato oppure tende a ripetersi con maggior frequenza e nell'una o nell'altra situazione si prendono decisioni in termini preventivi e terapeutici nettamente diverse. Però come ci sono le ore della febbre, ci sono anche le ore dell'ipertensione, tra virgolette, lo metto tra virgolette proprio perché la pressione nel corso della giornata si muove, professore. Certo. Quindi qual è il momento ideale per misurare la pressione, sia per una persona che è in trattamento terapeutico, sia invece per una persona che magari, sentendo la nostra trasmissione oggi, decide di andare in farmacia e misurarsi la pressione? La pressione ha quello che noi chiamiamo ritmo circadiano, per cui è più alta al mattino, perché ci permette fondamentalmente di passare dal sonno alla veglia e quindi tende ad aumentare dalle prime ore del mattino, le 5, le 4, le 5 del mattino progressivamente, aumenta durante tutta la mattinata, tende a decrescere un pochino nella prima parte del pomeriggio, tende a rialzarsi nella tarda serata per poi ridursi decisamente durante la notte. Questo è l'andamento medio dei valori di pressione arteriosa. Per quello che riguarda la misurazione, credo che il momento migliore sia certamente il mattino, perché il mattino è il momento nel quale con maggior frequenza possiamo rilevare alterazioni della pressione e quindi naturalmente il momento in cui possiamo avere un valore utile per la diagnosi. Per coloro i quali assumono una terapia antipertensiva, la scelta del momento è anche condizionata dal trattamento. Oggi la maggior parte dei farmaci vengono utilizzati in monosomministrazione al mattino, per cui per avere una misura reale dell'efficacia sarebbe corretto misurarsela ovviamente prima dell'assunzione della dose giornaliera di farmaci, perché in questo modo abbiamo misura di quanto sia la durata dell'effetto antipertensivo. A meno che durante la giornata i pazienti non risentano qualche sintomo particolare o qualcosa di particolarmente fastidioso, e a quel punto magari è giusto che se la controllino per vedere che l'effetto dei farmaci non sia eccessivo. Ma in media diciamo che il mattino, l'ora alla quale ci stiamo parlando adesso ad esempio, potrebbe essere estremamente adeguata. Perfetto, allora 800 24 00 24 per darci i numeri della vostra pressione. Intanto possiamo dare anche la parola, esatto, ai nostri ascoltatori. Chissà che ora la provano. Massimo dalla provincia di Bologna, Sergio dalla provincia di Cremona. Cominciamo con Massimo, che per primo si è messo in coda per intervenire a Cuore Denari. Massimo, benvenuto. Pronto, buongiorno a tutti. Io volevo chiedere al dottore se mi poteva spiegare una cosa. Io ho 61 anni, no? E io mi provo, cioè sono anche, diciamo, sono sovrappeso, no? Io mi provo la pressione di solito la mattina e ho delle pressioni molto basse, diciamo che vado dai 70, 72 ai 105, 106, no? Dipende dalle mattine. E io volevo chiedere, dottore, se poteva essere una situazione, perché sentivo prima che il dottore ha detto che in caso di stress la pressione tendenzialmente si alza. E siccome io ho un periodo un po' così, un po' stressato, nel senso che l'anno scorso mi è deceduta la moglie, mia madre è stato il femore, mio padre quest'anno è andato in demenza senile, cioè un susseguirsi, certo, di situazioni, un susseguirsi di situazioni che, essendo figlio unico, devo, cioè, correre sempre di qua e di là, esatto, certo. Io le voglio tenere a casa, di conseguenza non le voglio portare, non le voglio mettere, diciamo, in una casa di riposo. Massimo, lei è molto sotto pressione, quindi chiede al professor Borghi. Professore. Ma per la verità io ho molta comprensione per il nostro ascoltatore, al quale mando il mio saluto, anche perché è mio concittadino, il che ovviamente mi rende ancora più felice, ma credo che se davanti a tutte queste traversie i suoi valori di pressione sono quelli che lui ci descrive, credo che lui faccia molto bene a preoccuparsi della situazione della sua famiglia, augurandosi di risolvere rapidamente il problema, ma possa per il momento dimenticarsi dei suoi valori di pressione, che sono in un range di normalità spettacolare. Perfetto. Perché apparentemente non hanno nulla a che vedere. E andiamo a Sergio, che ci chiama dalla provincia di Cremona. Buongiorno Sergio. Buongiorno, molto velocemente, 77 anni, mi sono misurato la pressione al 9/9/2014, alle 8:21, la sistolica 114, la diastolica 71, pressione media 85, pulsazioni 60. Volevo sapere se naturalmente è troppo bassa o seppure va bene così. Professor Borghi, prima di tutto io invidio la sua precisione, è una cosa veramente straordinaria. Infatti si è meritato l'applauso, Sergio, vivacissimo. È stato veramente, io se avessi soltanto un 10% dei miei pazienti così precisi farei la metà della fatica nel mio lavoro. Al di là di quello, anche per il signor Sergio vale esattamente quello che abbiamo detto per l'ascoltatore precedente: si tenga cari questi valori di pressione il più possibile, perché sicuramente hanno un effetto protettivo e non possono nuocere in nessun modo. Quindi professore, dalle storie dei nostri ascoltatori possiamo raccogliere questo dato, cioè non è necessariamente vero che con gli anni si diventi ipertesi. No, non è necessariamente vero, avviene nella maggioranza dei casi che la pressione aumenti in maniera progressiva, ed è chiaro che chi aveva la pressione un pochino più alta nell'età più giovane tenderà più facilmente a sforare verso valori di ipertensione, ma quello che è vero come paradigma è l'aumento della pressione con gli anni. Non è vero come paradigma che tutti gli aumenti della pressione che si osservano con l'età si trasformano in quadri di ipertensione. Abbiamo nella parte avanzata della nostra vita valori che sono sensibilmente superiori rispetto a quella delle prime decadi, ma questa è l'unica realtà, non c'è un destino ineluttabile verso l'ipertensione dal quale non riusciamo a sfuggire. Allora, 800 24 00 24, sentiamo i mercati. Però, dillo tu. Allora, professor Borghi, noi vorremmo che lei, un po' come fa il nostro collega Meazza, sì, ci lanciasse i mercati e la ingaggiamo già anche per lanciarci poi ai 45 le informazioni sul traffico. Possiamo contare su di lei? Nella maniera più assoluta, anche perché sono le 11:30 ed è l'ora alla quale ho detto che ci deve misurare la pressione. Io vado a misurare la pressione e contemporaneamente voi parlate dell'informazione sui mercati. Cuore e denari. Noi potremo dal 1 gennaio mettere il trattamento di fine rapporto non alla fine, ma mensilmente in busta paga. È una proposta che viene da una parte del sindacato. È complicata, perché c'è una parte degli italiani che dice: ora io mi sento più tranquillo ad averli alla fine, perché magari poi si sposa mia figlia. Tutto vero, ci sono anche gli strumenti di previdenza integrativa. Allora su questo sarebbe bello sfidare anche il sindacato a non stare dietro soltanto ai meccanismi del passato, ma a inventarsi soluzioni nuove. Inventarsi soluzioni nuove, diceva proprio ieri sera ospite A che tempo che fa Matteo Renzi, e fra queste soluzioni per ridare un po' di slancio ai consumi e all'economia interna sembra esserci anche la proposta di inserire nella busta paga mensile parte del TFR, parte della quota normalmente destinata alla liquidazione per la fine del rapporto lavorativo. Certo, come dire, un introito mensile maggiore sarebbe necessario per molte famiglie, ma è anche un contributo che viene a mancare nel momento in cui il rapporto di lavoro si interrompe interrompi. Allora, cosa ne pensate? Cosa è meglio, avere qualcosa di più oggi o mettere da parte per domani? Senza semplificarla con la storia della cicala e della formica, noi ne parliamo oggi a Cuore Denari nella seconda parte del programma, rispondendo a tutte le vostre domande sulla gestione del trattamento di fine rapporto in base alla normativa attuale. 800 24 00 24, il numero verde a vostra disposizione. Deborah, stanno arrivando i messaggi, sì. L'argomento TFR mette sotto pressione, scalda, sì, diciamo. È vero, ha fatto anche salirla un po'. Sale il sangue alla testa. Professor Borghi, torniamo invece alla nostra pressione. Ci sono dei, si dice sempre che l'ipertensione, la mia è già considerevolmente più alta, avendo sentito tutte queste notizie, non perché me la sia misurata, ma perché sono arrivate tutte in sequenza, per cui sto immedesimandomi molto nel personaggio e nella trasmissione. L'abbiamo agitata, professore, non è che adesso non viene più, no? No, vengo molto volentieri, noi... però per dire come questo mezzo sia anche fisicamente integrato con chi sta dall'altra parte, sì. Pur non vedendoci, però viviamo in maniera molto intensa e la nostra pressione ovviamente ne risente. Legati dalla pressione, questo mi piace. Sì. 800 24 00 24 se volete intervenire con me, parlare con il professor Borghi. Professore, abbiamo tanti ascoltatori che sono in linea con noi. Volevo chiederle però una cosa suggerita anche da molti messaggi. Non abbiamo considerato il caso della persona che va a misurarsi la pressione, ha sempre una pressione normale, invece improvvisamente trova che la pressione, la massima è normale, mentre la minima supera i livelli di guardia. In questo caso che cosa si può fare e perché? Ma in questo caso, per la verità, il comportamento generale è lo stesso come se fosse il contrario, cioè il valore di pressione ha significato, quando è alterato, sia che sia coinvolta la massima sia che sia coinvolta la minima. Le nuove linee guida a livello mondiale dicono che la diagnosi di ipertensione è basata su un aumento o della massima o della minima o di entrambi i valori, quindi comunque il paziente necessita una attenzione. Allora... Sì. L'aspetto importante è che in generale, quando aumenta specificamente la pressione minima, ci sono più spesso cause secondarie alla base di ipertensione, per cui l'orientamento diagnostico e le procedure da attivare forse sono un pochino più complesse e devono avere un livello superiore di investigazione. Quindi occhio, professore, noi oggi vorremmo anche dare spazio a chi? Nonostante assuma farmaci, non riesce a controllare del tutto la sua pressione, e non sono pochi gli italiani che si confrontano con questo problema. Come mai? 80% circa, più o meno. Noi abbiamo dei dati nostri prodotti in Italia e dei dati anche della Società Italiana dell'Ipertensione, che ho l'onore di presiedere, che dicono che fondamentalmente noi siamo intorno al 37-38% di controllo della pressione nei pazienti trattati, il che vuol dire che nella migliore delle ipotesi il 60% dei pazienti ipertesi, anche sottoposti a un trattamento farmacologico, non riesce a ottenere un risultato. I motivi li abbiamo cercati tante volte, li stiamo analizzando, abbiamo lanciato anche un programma che si chiama in questo modo Progetto 70%, proprio per cercare di raggiungere questa cifra mitica del controllo della pressione, che ci metterebbe al sicuro da molti eventi cardiovascolari. In parte sono dovuti a questioni di tipo farmacologico, sia farmaci che vengono utilizzati in generale a dosi troppo ridotte rispetto la loro efficacia, con uno scarso ricorso alla terapia di combinazione, quindi all'associazione di più farmaci antipertensivi. In parte il grande mastodonte che sta alle spalle di tutto questo è però l'aderenza al trattamento. Lei comprende che noi somministriamo farmaci per una condizione che nella maggior parte dei casi è asintomatica, e quindi che il paziente percepisce come intrusivi della propria, sì, vita, e quelli che sono un po' meno diligenti nel comprendere il messaggio e le motivazioni tendono con grande frequenza a sospendere il trattamento. Questo naturalmente è una condizione che non facilita il controllo della pressione, perché la terapia è fondamentale per acquisire il risultato. Professore, ma ci sono dei comportamenti che possono in qualche modo ridurre l'efficacia dei farmaci? Sto pensando al fumo, ad esempio. Sì, il fumo fumo è sicuramente, ci sono quelli che noi chiamiamo meccanismi di controregolazione. Questa è una domanda, è una parola apparentemente molto difficile, ma vuol dire semplicemente che se noi spingiamo in una certa direzione c'è una forza uguale, alcune volte più potente, che spinge nella direzione opposta, per cui il risultato è sostanzialmente nullo, perché i farmaci ovviamente hanno un loro meccanismo d'azione che può essere vanificato da alcune delle nostre abitudini di vita. Il fumo è certamente una di queste, l'abitudine al fumo è uno dei meccanismi di resistenza alla terapia antipertensiva, l'altra è mangiare eccessivamente salato, il sale è uno dei meccanismi di resistenza alla terapia antipertensiva, le alterazioni della glicemia, non, anche senza arrivare francamente alla presenza di diabete, ma già alterazioni intermedie della glicemia sono condizioni che si oppongono al controllo, la vita sedentaria di per sé innesca una specie di circolo vizioso dal punto di vista del funzionamento del cuore e del circolo, per cui i pazienti rispondono meno alla terapia antipertensiva, per cui vede anche in questo caso noi siamo fatalmente artefici di noi stessi. Professore, lei ha citato il sale, invece negli ultimi giorni si è molto sottolineato il ruolo dello zucchero, si è legato il consumo di zucchero al rischio ipertensione, vogliamo mettere un po' i puntini sulle i? Sì, si è sovrainterpretato un'informazione marginale dal punto di vista scientifico, ma che ovviamente, poiché andava contro una logica consolidata che era quella del sale, ha avuto grande ricaduta dal punto di vista mediatico, secondo la quale ovviamente lo zucchero avrebbe un ruolo prevalente rispetto al sale nello sviluppo di ipertensione. Certamente questo non corrisponde a verità, o quantomeno non corrisponde a verità il fatto che ci sia una competizione fra lo zucchero e il sale. Entrambe sono sostanze che sono in grado di alterare i valori di pressione arteriosa, ciascuna con un meccanismo proprio, molto spesso di tipo sinergico, per cui la conclusione non è quella di mettere in competizione i due per far sì che ci siano partiti di mangiatori di dolci e partiti di mangiatori di prosciutto, ma fondamentalmente considerare il fatto che bisogna mangiare sia i dolci che il prosciutto con una certa moderazione, perché entrambi alla fine poi concorrono sulla stessa via comune, che è quella di far aumentare i valori di pressione arteriosa. Con il caffè come la mettiamo, professor Borghi? Forse gliel'ho già chiesto anche l'altra volta. Basta, non me lo ricordo. Lo può chiedere tutte le volte che vuole, almeno 6 volte al giorno, che sono il numero di caffè che io sono abituato a prendere. Il caffè è una delle sostanze forse più bistrattate, nel senso che la maggior parte dei pazienti posti davanti alla loro condizione di ipertesi dicono immediatamente, dice, da quando ho saputo di avere l'ipertensione ho smesso di bere caffè, facendo una cosa terribilmente sbagliata, perché i bevitori cronici di caffè non hanno la pressione più alta se non un modesto aumento della frequenza cardiaca, e perché il caffè contiene una infinità di sostanze ad azione antiossidante che è dimostrato ampiamente abbiano effetti vantaggiosi e non svantaggiosi sulla parete dei vasi e anche sul controllo dei livelli plasmatici di glicemia. Quindi non facciamoci del male, non combattiamo una delle nostre grandi glorie nazionali che è il caffè, beviamolo con moderazione, ma sicuramente senza considerare che quello possa essere uno dei meccanismi di scarso controllo della pressione. La realtà è tutt'altra. 800 24 00 24. Ah, poi tra l'altro Nicoletta c'è anche, non so se sia una leggenda, quella della liquirizia. Non è una leggenda, vero professor Borghi? No, non è una leggenda. È una leggenda però il fatto che il bastoncino di liquirizia o la liquirizia che ci regala un amico mentre stiamo seduti a una noiosa conferenza, per cui non troviamo niente di meglio da fare che mangiarci una caramella, possa essere pericolosa. La liquirizia è pericolosa se uno ne mangia grandi quantità. Certo, come tutte le cose. Perché contiene una sostanza chimica che assomiglia a un ormone, il quale a sua volta è in grado di interferire con il riassorbimento del sodio da parte del rene, quindi è in grado di far aumentare la pressione. I più esposti naturalmente sono i fumatori pentiti, quelli che in luogo di utilizzare la sigaretta si mangiano le caramelline di liquirizia e per tamponare la compulsione verso il gesto che tanto amavano sono in grado di mangiarsene 3 pacchetti al giorno. In quel caso la liquirizia può essere un problema. Lorenzo ci scrive al 349-238-66 che mangia molto aglio e lo sa che non è socialmente accettabile, ci scrive: ma è vero che abbassa la pressione? Almeno che abbassi la pressione, perché professor Borghi, se no Lorenzo diventa veramente un po' impestante, come si dice. Sì, credo che Lorenzo possa cambiare abitudini, perché la capacità dell'aglio di ridurre la pressione è molto modesta, bisogna mangiarne delle quantità industriali. da sterminare probabilmente tutti i vampiri che stanno sulla faccia della terra quantitativamente, e alla fine senza ottenere grandissimi vantaggi, perché la caduta della pressione che si ottiene è sicuramente molto modesta e lontana da quella che si possono ottenere con i farmaci, o forse con molte di queste sostanze delle quali forse abbiamo parlato in passato, che si classificano come nutraceutici, che sono comunque sostanze di derivazione alimentare, che però hanno un meccanismo più specifico, cioè un bersaglio più preciso legato al controllo della pressione, che possono essere nettamente più efficaci e socialmente più accettabili. Dove andiamo? Da un altro bolognese? No, sì, andiamo, perché loro preferiscono conversare a cuore denari con il medico che sta a Bologna, no? Sì. Piuttosto che andarlo a trovare devono parlarci tramite la radio. Vito, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno Vito. Buongiorno. Eccoci. Allora? Io ho pressione minima alta, già da 4-5 anni, quindi prendo tutte le mattine una pillola, però volevo sapere se c'è una relazione tra appunto la possibilità di abbassare la pressione facendo più sport. Invita a nozze il professor Borghi, che in un minuto, perché poi abbiamo le informazioni sul traffico che ci ha promesso di lanciare. Professore, vada. Sì, certamente sì, anche meno di un minuto. Quello che dice Vito è sicuramente un messaggio incoraggiante che deve essere trasferito a tutti i nostri ascoltatori. E quello che dicevi in precedenza, se stare fermi è un meccanismo che blocca l'effetto dei farmaci, fare attività fisica è una condizione che predispone le nostre arterie a reagire in maniera favorevole all'effetto dei farmaci. Quindi è verosimile che se uno fa attività fisica controlli meglio la sua pressione e ottenga un maggior rimborso dai farmaci che sta assumendo in termini di miglior controllo della pressione, quindi non c'è dubbio. Allora muoviamoci e professor Borghi, intanto che lei ci saluta, ci aiuta certamente a lanciare il secondo appuntamento? Nella maniera più assoluta, muoviamoci, cerchiamo di farlo nel modo migliore possibile, e più ci muoviamo in maniera dinamica, più siamo in grado di evitare il traffico, quindi traffico. Professore, buongiorno e grazie, un abbraccio. Alla prossima. Buona giornata. Grazie. Cuore e denari. Pensiero stipendio, se mi tingo di biondo, me lo faccio pagare, se qualcosa va male, meglio sparire. Pensiero stipendio. Come al solito Maurizio Crozza ha ragione, il pensiero non è sempre lì, ma è molto lì, no Nicoletta, sei certo, d'accordo? Certo, assolutamente. Sullo stipendio lo conteggiamo lì per vedere se ci permette di arrivare alla fine del mese un po' strattonato da tutte le scadenze. Uno stipendio che dunque proprio per questi motivi, se fosse un po' più sostanzioso, potrebbe servire a noi per rilanciare anche un po' tutta l'economia, perché naturalmente un po' più di soldini in tasca ci permettono di fare un po' più acquisti, consumare di più. E in questi giorni si è fatta strada un'ipotesi che avrebbe come obiettivo proprio quello di rilanciare i consumi. Dopo gli 80 euro, questo governo ci sta provando in tutti i modi. L'ultima novità riguarderebbe il trattamento di fine rapporto, e cioè il TFR, una sigla che conosce bene tutto il mondo dei lavoratori dipendenti, e cioè quella somma che viene liquidata al termine di un rapporto di lavoro. Quindi la famosa liquidazione, no? Nicoletta te la ricordi. L'idea, che per la verità ha già fatto balzare in molti sulla sedia, le aziende in particolar modo, sarebbe quella di trasferire subito il 50% del TFR che si sta maturando nelle buste paga dei lavoratori e lasciare l'altra metà appunto alle imprese poi per la futura liquidazione. Si tratta ancora di una proposta, quindi questo chiariamolo sin da subito, per cui tutte le domande anche di natura tecnica che arriveranno, come si farà, quanto verrà tassato, eccetera, eccetera, noi non abbiamo ancora delle risposte, però possiamo vedere, sentire se l'idea ci alluzza, se saremo favorevoli, contrari, quale soluzione magari proporre al posto di Renzi. Mandiamo un bel disegno di legge noi, a firma le regine di Cuore e Denari, 800 24 00 24 per tutte le vostre domande, che appunto anche prima Nicoletta lo osservava, è stato un tema che già dall'inizio del programma ha fatto alzare la pressione a molti ascoltatori. Prima di presentare l'ospite che ci accompagnerà in questo percorso, vogliamo già sentire qualche commento. Che ne Assolutamente pensi? Facciamo oggi sì. questa innovazione. Allora, io andrei, se tu sei d'accordo, certo. Nella provincia di Arezzo. Volentieri. Ci chiama Graziella all'800240024 ed è la prima ascoltatrice che apre la seconda parte di Cuore Denari, e quindi siamo contenti che sia donna. Buongiorno, esatto. Graziella. Buongiorno a voi, vi ringrazio della trasmissione di tutto. La domanda che facevo io è: questo TFR chi lo deve anticipare? Il datore di lavoro. Diciamo che quindi, essendo lui che lo trattiene, quello che si accumula. Si sa perfettamente che il TFR dovrebbe essere tenuto da parte, fuori dal bilancio dell'azienda, ma si sa perfettamente che quando è in difficoltà, certo. È la doca. Certo. Quindi a questo punto qui le aziende già sono in difficoltà, perché le piccole e medie, sto parlando, le grandi magari hanno altre vie. E se poi si sobbarcano anche dell'anticipo del 50% del TFR, certo. Come fanno? Graziella, posso chiedere come mai ha tutta questa sensibilità attorno a questo argomento? Perché ho avuto una piccola azienda e al momento che il TFR fu passato o a gestione sindacale oppure lasciarlo in ditta, io dissi alle mie ragazze: siccome ci sono questi soldi, perché io l'avevo tenuto da parte, io ve li do, voi ne fate l'uso che meglio credete. Quindi ci sono soldi vostri. Non avevano fatto la previdenza complementare le sue dipendenti, Graziella? Non lo so cosa avevano fatto, l'hanno lasciati tutti in azienda. Però, scusi, sì, so io. Chiaro. Grazie, Graziella, comunque abbiamo capito lo spirito della sua osservazione. Maria Rosa Gheido, la nostra ospite di questa mattina, consulente del lavoro, esperta sulla materia del lavoro naturalmente per il Sole 24 Ore. Buongiorno e benvenuta, dottoressa. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, torinese. Sì, piemontese, senz'altro. Allora, dicevo prima, naturalmente non abbiamo nessun tipo di dettaglio, abbiamo ancora una proposta, qualche studio che è stato anche fatto dal Sole 24 Ore e qualche altro giornale che si è sbizzarrito nei giorni scorsi a fare qualche calcolo, cercando di capire sulla base di uno stipendio medio, a seconda del tipo di lavoro che si fa, quella che potrebbe essere la cifra che si maturerebbe, appunto, e che entrerebbe in tasca se questa iniziativa venisse portata avanti dal Ministero dell'Economia, naturalmente con l'accordo del Ministero del Lavoro e quindi da tutto il governo. Dottoressa Gheido, senza metterla in imbarazzo, naturalmente denunciando subito il conflitto di interesse che lei fa anche l'esperta per il Sole 24 Ore su questi argomenti, le chiedo così un po' un commento di massima su questa potenziale iniziativa. Lei esiste una parte dalla quale propende? Sì. Prima però di dirvi qual è questa parte, premetto che indubbiamente c'è un gran bisogno di aumentare il denaro che circola, no? Perché così crescerebbe forse la domanda. Nello stesso tempo però qui più ancora che un conflitto di interessi gioca una profonda conoscenza per il mestiere che faccio dei meccanismi che ruotano intorno al trattamento di fine rapporto. E ho la sensazione che oltre a quell'aspetto che sento denunciare un po' da tutti i piccoli imprenditori che l'ascoltatrice ha segnalato poco fa, quindi dell'impegno di liquidità che oggi non è così facile smobilizzare, ci sono anche tante altre cose che sul TFR fanno perno. Pensiamo alla previdenza complementare, pensiamo alla tassazione separata che un'erogazione mensile potrebbe far perdere. E pensiamo alle complicazioni gestionali nel momento in cui questa anticipazione fosse considerata come rimarrebbe un'anticipazione sul trattamento di fine rapporto. Quindi gli aspetti negativi sono tali e tanti che credo che se si va su questa strada debbano veramente essere comparati. Esatto. Ci aggiungo anche, dottoressa Gheido, che probabilmente se dovesse andare avanti questa iniziativa dovrà essere varato un procedimento di volontarietà, no, del lavoratore, per cui anche lì ulteriore documentazione che i lavoratori dovranno firmare, quindi altre complicazioni proprio anche per la vita in azienda, perché anche questo passaggio che può sembrare banale poi in realtà non lo è affatto, lo abbiamo visto anche all'epoca della riforma del TFR con il meccanismo del silenzio assenso, quanto fu complicato. Certo, certo. Non solo, ma le do velocissimo un altro elemento di riflessione. Lavoratori in cassa integrazione. l'azienda è arrivata su questa strada perché non ce la fa, perché non ha liquidità. Per questi lavoratori comunque il trattamento di fine rapporto matura, e matura sulla base della retribuzione che avrebbero percepito se avessero lavorato. Ora qui la domanda diventa persino banale. Il datore di lavoro così in difficoltà si trova a dover anticipare questo 50% che è teorico su un periodo dove non c'è nemmeno la prestazione lavorativa. Quindi veramente la problematica del TFR è tale, esatto, che va valutata con tanto. Allora, secondo noi, poi io magari non so, mi avventuro in un giudizio che magari non mi compete, però insomma ci è sembrata un po' una sortita ingenua, direi, ma magari poi qualche tecnico del Ministero dell'Economia e di quello del Lavoro scoraggeranno il Premier, pur comprendendo anche lo spirito con il quale ha avuto, no, questa idea. Bisogna mettere un po' più di soldi in tasca alle famiglie e magari abbattendo la tassazione che grava sul costo del lavoro, naturalmente lì potrebbe essere forse un'idea migliore, e su questa idea magari la lasciamo qua e ne parleremo in un'altra circostanza. Andiamo ancora a sentire un po' cosa ne pensano gli ascoltatori. Abbiamo Francesco che ci chiama da Palermo e subito dopo Luciano da Massa. Buongiorno Francesco, benvenuto. Salve, buongiorno a tutti voi. Che ne pensa Francesco? Ma io personalmente non sono d'accordo. No. No, perché fondamentalmente facendo due calcoli così mi chiedo, ma quanto sarà poi alla fine in concreto questo aumento? Non penso che parliamo di grosse cifre se parliamo già di dimezzare appunto il TFR. Che poi tra l'altro sono anche cifre tassate. Francesco, le faccio un esempio che ho trovato appunto su un paio di giornali in questi giorni, anche il Sole 24 Ore ha fatto dei calcoli. Un lavoratore agricolo inquadrato contrattualmente come operaio, se percepisce un reddito medio di 16.600 euro all'anno, si assicurerebbe un beneficio di circa 573 euro lordi all'anno, cifra che quindi andrebbe anche tassata, un'imposta minima del 23%, quindi nelle tasche del lavoratore fisicamente andrebbero a finire circa 440 euro, che sono sicuramente cifre di tutto rispetto, non sono quelle che cambiano la vita, dottoressa Gheido, per cui effettivamente, beh, magari per un lavoratore che percepisce questo stipendio. Certo, no, ma poi diciamo che volendo proprio fare un conto sulla propria realtà, diciamo, retributiva, un conto velocissimo, un 7% circa dello stipendio lordo. Togliamo a questo 7% quel 23% a cui lei giustamente accennava. Cuore e denari. Ma oggi ho visto il direttore, mi ha detto siamo spiacenti. In una mano ha la liquidazione, nell'altra mano ha la pacca consolante. Eccoci ritrovati in diretta, ancora buona giornata da Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone. Ti presento io, vedi, faccio tutto io. Dai, che mi piace, sì. Cuore denari, oggi parliamo di un tema che a quanto pare, pur non avendo nessun dettaglio, è solo una proposta quella della quale stiamo parlando questa mattina, vi ha già scatenato e in linea con la prima parte del programma vi ha proprio fatto alzare la pressione. Parliamo del trattamento di fine rapporto. Nel governo si discute sulla possibilità di traslocare parte del TFR nelle buste paga dei lavoratori dipendenti, e questo per mettere un po' più di soldini in tasca e quindi, come dire, magari saldare anche qualche debituccio, così come ha fatto questa cifra degli 80 euro appunto in busta paga a maggio, ma soprattutto per rilanciare un po' i consumi. Voi da che parte state? Vedo che state contestando un po' il principio. Certo, ma possiamo invitare Deborah e i nostri ascoltatori a chiamare il nostro numero verde 800 24 00 24 per esprimere le perplessità su questa ipotesi di cambiamento, ma vogliamo aprire anche le nostre linee telefoniche a tutte le vostre domande sul TFR, come si matura, come si gestisce in un mondo del lavoro sempre più discontinuo, quando si può riscattare una parte, come si fa ad alimentare con il TFR un fondo pensione o una forma di previdenza integrativa. Ottimo, diciamo il TFR un po' a 360 gradi stamattina. Un TFRone. Per rispondere a tutte le vostre domande con noi oggi la dottoressa dottoressa Maria Rosa Gaido, consulente del lavoro, esperta delle Sole 24 Ore. Prima abbiamo brutalmente interrotto, dottoressa Gaido, ce ne scusiamo, ma il tempo radiofonico è sempre un po' tirano. Stavamo spiegando in che percentuale mensilmente si forma il TFR e come possiamo fare a calcolare, in base al nostro stipendio lordo annuo, quanto ci verrebbe in tasca se questa idea di Matteo Renzi mandasse in porto. Quindi ci fa un po' il riepilogo della situazione per capire come possiamo contare, conteggiare anche questa cifra? Certo, tecnicamente è accantonato a titolo di TFR la tredicesima parte di ciò che matura nell'anno, però volendolo calcolare in modo molto veloce si può calcolare un 7% circa, poco meno, 6,91, della retribuzione lorda, quindi non del netto che è percepito materialmente, ma di quella cifra che in busta paga è di solito posta in alto. Quindi il TFR è calcolato sul lordo e, per esempio, su un TFR, su una retribuzione mensile lorda di 1.800 euro, che è un valore insomma medio-basso ma abbastanza comune, avremmo a questo punto al 50% un lordo in busta a titolo di trattamento di fine rapporto di 63 euro, che è appunto un 7% circa del valore che dicevo. Su questo calcoliamo pure in modo molto ottimistico un 23% di tassazione, perché la tassazione del trattamento di fine rapporto è assai complessa, non è, è basata su un calcolo che ora ci farebbe perdere troppo tempo, e quindi prendiamo l'aliquota minima del 23%, il che vuol dire che me ne resterebbero più o meno 49-48 puliti. Il mensile, ora, naturalmente stiamo parlando, poi dobbiamo moltiplicare per 12. E... sì, beh, io sto parlando di mensile perché poi è quello che più si capisce, no? Anche perché il governo, da quello che ho letto, sarebbe ancora indeciso se fare un'erogazione annua oppure un'anticipazione di tipo mensile. Ora, è chiaro che questo importo non so se cambia la vita. Sì, probabilmente, come gli 80 euro che io apprezzo, hanno aiutato e aiutano, perché insomma qualcosina sarebbe stupido dire che non sono serviti o che non servono. Nello stesso tempo però, come dicevo all'inizio, bisogna comparare questo vantaggio e compararlo con quello che per l'azienda diventa in molti casi un esborso che potrebbe anche essere non sostenibile in questo momento, e nello stesso tempo porta con sé una tale complicazione gestionale, proprio perché anticipazione di trattamento di fine rapporto, perché se così non fosse diventerebbe retribuzione a tutti gli effetti e quindi il costo è tassata anche diversamente, certo. Tassata diversamente sarebbe anche poi un imponibile contributivo. Tra l'altro, sempre soffermandoci un po' sulle potenziali difficoltà delle aziende che si vedrebbero tra virgolette sottratte, no? Queste risorse, questa liquidità, anche se poi il processo sarà su base volontaria, perché magari molti lavoratori sceglieranno di non prenderla, no? Questa cifra, di mantenerla nel TFR, esatto, in azienda. Mettiamo anche una piccola azienda che ha 10 dipendenti e tutti insieme invece vogliono aderire a questa opportunità, pensiamo tutto in una volta che tipo di problema di liquidità di cassa si crea appunto ad una società. Tanto più che quando si istituì dal 1 gennaio 2007 la previdenza complementare di conferimento del TFR, ci fu un periodo di alcuni anni in cui all'azienda fu dato un piccolo aiuto, diciamo piccolo, ma è chiaro che poi nell'ambito delle risorse pubbliche disponibili anche il piccolo diventa grande. Però fu dato un piccolo aiuto per affrontare questa perdita di liquidità. Oggi probabilmente si pensa di fare altrettanto, ma sono soldi che escono dalla finestra. Bisogna sempre fare i conti, no? con quelle che sono purtroppo le scarse risorse di gestione. Allora, intanto volevo anche precisarlo ad alcuni ascoltatori che contestano un po', forse non hanno capito bene come potrebbe funzionare, non abbiamo capito neanche noi, però qualcuno dice ma insomma perché ci vogliono prendere questi soldi, nessuno ci prende niente, anzi semmai, come dire, lo Stato vorrebbe metterci in tasca un po' di denaro in più, non ci sarà niente di obbligatorio, se tutto questo dovesse partire abbiamo almeno la certezza, dottoressa Gaido, che sarà fatto tutto su base volontaria. Sì, ora ci mancherebbe, ora pure è fatto su base volontaria, non solo, ma è una volontarietà che deve far conto con altre scelte a suo tempo fatte, perché quando il TFR è in azienda, beh, io scelgo e poi il datore di lavoro si adeguerà. Ma non dimentichiamoci che dal 2007 si finanzia il fondo pensione. Esatto, va a fondo pensione, e quella del fondo pensione è una scelta irreversibile, perché il fondo pensione è stato voluto e creato per darci una previdenza complementare, una pensione aggiuntiva. Certo, quindi pensi lei, se si verificasse il caso in cui un lavoratore vuole questo 50% del TFR, ma magari si è dimenticato che sta versando alla previdenza complementare, lì non potrà, immagino, prendere nulla? No, lui no, dovrebbe intervenire un'ulteriore disposizione che obblighi in qualche modo i fondi a smobilizzare. Vabbè. Ma questo non solo mi sembra difficile, ma ricordiamoci anche che oggi anche tutto ciò che è accantonamento alla previdenza complementare subisce fortemente gli effetti della crisi, per cui sono sempre di più i lavoratori che chiedono indietro, se possono, quello che hanno versato o che non versano più, perché insomma la difficoltà di oggi. E quella è la pensione che domani dovrà aiutare a affrontare il nuovo sistema pensionistico, che bene o male fra una quindicina d'anni andrà a regime. Per cui anche sottrarre al terzo pilastro delle risorse vuol dire... Sì, allora, buttare proprio all'aria tutta la riforma Maroni del 2007, tutto lo spirito, tutto l'impianto, e poi appunto mettere nelle condizioni i lavoratori di utilizzare certamente adesso perché servono queste risorse, ma poi non ce le avranno quando andranno in pensione e magari poi in quel frangente lì si pentiranno della scelta fatta adesso, però insomma non possiamo stare nella testa di tutti. Infatti, chi sentiamo? Però andiamo a sentire che cosa frulla in testa al nostro ascoltatore che ci chiama dalla provincia di Piacenza, si chiama Giovanni, ha chiamato il nostro numero verde. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Io ho chiamato in merito perché io ho fatto una richiesta per il TFR, una parte del TFR, per una spesa medica. Sì. E dopo tanti, perché una volta mi ha detto che non lo potevo ritirare per una cosa e l'altra, adesso mi ha detto che non ci sono più soldi, quindi non posso ritirare TFR. È la sua come azienda che le ha dato questa risposta, Giovanni? Sì. Quanto è grande l'azienda per la quale lavora? Siamo 5 operai. Ecco. Allora, il tema è che lei aveva chiesto un anticipo di TFR, come nel suo diritto, un piccolo riscatto per sostenere appunto una spesa medica, ed è uno di quei casi, dottoressa Gheido, che danno diritto appunto al lavoratore di chiedere un anticipo del trattamento di fine rapporto. L'azienda può dire sì, può dire no, mediamente questo è un diritto del lavoratore, però l'azienda si può riservare anche di negarlo. Cosa ne pensa del caso che abbiamo sentito? Dico che su questa tematica i fraintendimenti sono molti. Il datore di lavoro è vero che è obbligato in determinate condizioni, ma è un obbligo condizionato, nel senso che innanzitutto la spesa medica non deve essere una spesa, come posso dire, passatemi il termine, banale. Certo, per i massaggi, per la cellulite, ecco. Però no, esatto. Giovanni doveva... Non l'ha detto, ma lui aveva anticipato, Giovanni, che avrebbe dovuto rifarsi i denti. Ecco, diciamo che considerando dovuta, quindi collegata al diritto, ci sono però dei limiti che in qualche modo esonerano i piccoli datori di lavoro dall'obbligo, perché se andiamo alla norma civilistica vediamo che innanzitutto il lavoratore deve avere un'anzianità di almeno 8 anni per obbligare il datore di lavoro a prendere in considerazione la sua richiesta, il quale datore di lavoro fra l'altro ha una specie di esonero, nel senso che il numero a cui è obbligato può essere inferiore al 4% del numero totale dei dipendenti. Ora è chiaro che nelle piccolissime realtà l'obbligo in realtà è un non obbligo, è un obbligo, le ripeto, condizionato dalla presenza dei requisiti anche numerici che fanno sì proprio di... Dopodiché il datore di lavoro, se può, anche se non è obbligato, ovviamente può aderire alla richiesta. Può andare incontro alla richiesta del l'obbligo lavoratore. L'obbligo legale è quello codicistico. Tra l'altro, dottoressa Gheido, adesso l'ascoltatore ci ha raccontato che aveva questo problema di salute e voleva risolverlo attingendo appunto a questo tesoretto che tra c'è. L'altro fa bene, perché si è visto che, a proposito, siamo nella giornata mondiale del cuore, c'è una relazione molto stretta tra la salute della bocca e la salute del cuore. Chiudo. fatto bene però ricordarlo, perché sennò non sarebbe cuore e denari, quindi bravo, dobbiamo farle sempre queste relazioni. No, stavo pensando, se invece lui fosse andato in pensione, dottoressa Gheido, e fosse arrivato proprio il momento di riscattare tutti il TFR che aveva maturato, l'azienda poteva dire lo stesso: non ho liquidità disponibile in questo momento, non posso erogartelo? No, il diritto al TFR è fra l'altro un diritto potenziale per tutta la vita lavorativa, ma nel momento in cui c'è la cessazione del rapporto di lavoro diventa un diritto reale effettivo, per cui il datore di lavoro non può dire non ce li ho e te li do. Sì, è chiaro che lo può dire, però a quel punto deve col lavoratore concordare un piano di pagamento. Infatti c'è un'ascoltatrice, adesso non so se riusciamo a prenderla, all'800240024, Anna Maria da Verona, che voleva proprio raccontare che è andata in pensione un anno e mezzo fa e le hanno virtualmente, cioè teoricamente, bloccato il TFR per 24 mesi, riprenderà nel 2015. Giustamente lei dice non è giusto, però è anche vero appunto che è importante intanto prenderli. Tra l'altro ci sono anche degli scaglioni, no, dottoressa Gheido? Al di sopra di una certa cifra per legge il TFR viene erogato appunto ratealmente, diciamo, però devono essere cifre di liquidazioni molto alte. Questo è solo per il pubblico impiego. Ah, ecco. Per il pubblico impiego fino a 50.000 euro l'ammontare viene erogato in un'unica soluzione, di solito dopo circa 3 mesi dalla cessazione. Superando i 50.000 euro invece c'è una rateazione, 2 importi annuali, 3 addirittura quando si superano i 100.000 euro. Ma questo vale solo per il pubblico impiego, che fra l'altro mi sembra attualmente sia escluso dalle ipotesi di cui oggi stiamo così un po' chiacchierando, ecco. Allora, noi vogliamo andare a chiacchierare con Felice, esatto, che ci chiama da Lodi. Che tra buongiorno. L'altro ha una visione proprio un po' controcorrente, dato che, se non sbaglio, Felice è un imprenditore, lei. Sì, io sono un imprenditore. Sì. E niente, io sono favorevole al metterlo in busta il TFR, perché per me ad esempio è un problema la gestione del TFR. Però ecco, lei non è che la vede, come dire, nell'ottica del dipendente che ha bisogno di questo denaro perché deve comprare qualcosina, perché appunto tutto insieme poi questo processo scatenerà un aumento dei consumi incredibile, perché per lei è un adempimento... Sì. Si toglie un peso, insomma, no? Ma Felice? Io tutte le volte che ho potuto gliel'ho sempre anticipato. Quindi quando gliel'hanno chiesto? Sì, anche per acquisti futili o personali, io ho sempre detto, guardate che c'è il TFR, sono soldi vostri, usateli. Felice, quanti dipendenti ha, posso chiederle? Una piccola azienda, abbiamo 7 dipendenti. E quindi, da quello che capisco, lei all'epoca della riforma del TFR non ha fatto una grande campagna anche per così incentivare i suoi dipendenti ad aderire ad un fondo pensione, ad un piano pensionistico individuale? Cercato di spiegargli che fortunatamente le regole erano cambiate e la pensione non sarà più come una volta, e perciò dovevano fare qualcosa da loro. Nessuno ha seguito i miei consigli, perciò ho sempre cercato di spiegargli di usare i loro soldi perché sono loro. Grazie Felice, adesso sentiremo la dottoressa Gheido che ne pensa. Abbiamo pescato Anna Maria, che avevo anticipato prima. È in linea già con noi, ma prima lasciamo la parola alla dottoressa Gheido, prendiamo anche Anna Maria. Prendiamo anche Anna Maria. Anna Maria, buongiorno, è arrivato il suo momento. Buongiorno. Buongiorno. Allora, posso parlare? Certo. Allora, io sono una dipendente pubblica, lavoravo in un'azienda ospedaliera. Sono andata in pensione al 1 marzo del 2013 e quando sono stata chiamata dalla segretaria per il conteggio di tutto quanto, la novità è stata che l'azienda ospedaliera e la regione, penso, mi hanno bloccato il mio TFR praticamente per 24 mesi. Il mio TFR è là fermo. Tutto, Anna Maria, non le hanno dato neanche un piccolo anticipo? Nel pubblico impiego non si può chiedere un prestito del TFR, assolutamente, si deve dare solo, almeno nel nostro contratto, lo danno a fine rapporto di lavoro, ma questo qua adesso non sta succedendo, ma con tutti i colleghi che vanno in pensione, nel disinteresse di tutti, io ho mandato perfino un'email al sito al governatore Zaia. No, dovrebbe mandarlo. L'ho interpellato. No, perché tra l'altro là con la sanità, insomma, si sono dati tanto da fare, Nicoletta, abbiamo letto, per così promuovere i servizi persino notturni, no? Poi qua i dipendenti li mandano in pensione e non danno il TFR. Congelano. Esatto, no, Anna Maria, guardi, vado subito dalla dottoressa Gheido perché tra un minuto chiudiamo, grazie. Dottoressa Gheido. Solo però per in merito all'ultima telefonata, e non è stata, come posso dire, una prevaricazione, è la legge che lo prevede, cioè c'è un termine nel pubblico impiego, è solo nel pubblico impiego, un termine breve di 105 giorni se c'è l'inabilità, 12 mesi se c'è un raggiungimento dei limiti di età pensionabile, 24 mesi se ci sono dimissioni volontarie, pensionamento anticipato, licenziamento. Quindi è possibile che Anna Maria, adesso non abbiamo chiesto, abbia chiesto. È una regola recentissima, fra l'altro, quindi la signora senz'altro l'ha subita, perché sono le cessazioni successive al 31 dicembre 2013. Un ultimo commento sulla posizione, dottoressa Gheido, dell'imprenditore precedente, che, come diceva giustamente anche lei prima, insomma è un po' una rognetta il trattamento di fine rapporto, gestirlo, accantonarlo, no? Poi erogarlo, liquidarlo quando lo si chiede. Sì, anch'io ho piccoli dipendenti, cioè aziende di piccole dimensioni dove si vorrebbe liquidare mensilmente qualsivoglia cosa, perché così non si contabilizza, non si debbono fare procedure complicate. Purtuttavia sul TFR, al di là del concedere anticipazioni, come fa questo imprenditore, che è una libertà totale dell'imprenditore, io consiglio sempre di formalizzare comunque, perché i tempi poi possono cambiare. Certo. Dobbiamo chiudere, dottoressa Gheido, quindi formalizzare cosa intende? 5 secondi. Formalizzare che io te li concedo perché in questo momento posso, che non debba diventare una sorta di prassi consolidata nell'azienda. Grazie a Maria Rosa Gheido per essere stata con noi. Buonissima giornata, Carmelo Lauricelli regia la parte tecnica, Laura Vanossi e a Marco Lombardo in redazione. Noi torniamo io domani. Io domani ti lascio sola, fai la brava senza di me. Farò il possibile. Cuore e denari.